Civiltà. Italia, politica. Enti locali. La Costituzione repubblicana italiana prevede una struttura dello Stato democratico con trasferimento di poteri ad enti locali. A livello territoriale ci sono i comuni e le regioni. Il comune è l'ente politico territoriale elementare e comprende un centro abitato e il territorio che lo circonda. È amministrato da un consiglio comunale. Il capo del consiglio è il sindaco che, grazie a una legge del 1993, è eletto direttamente dai cittadini. La regione è un ente che gode di grande autonomia. Ogni regione ha poteri legislativi che riguardano polizia locale, mercati, istruzione pubblica, trasporto pubblico, musei e biblioteche, turismo e industria alberghiera. Questo potere è in mano al Consiglio regionale, guidato da un presidente. La città principale viene chiamata capoluogo della regione.